Was spricht eigentlich gegen den Kommunismus? Er ist vernünftig, jeder versteht ihn. Er ist leicht, du bist doch kein Ausbeuter, du kannst ihn begreifen. Er ist gut für dich, erkundige dich nach ihm. Die Dummköpfe nennen ihn dumm und die Schmutzigen nennen ihn schmutzig. Er ist gegen den Schmutz und gegen die Dummheit. Die Ausbeuter nennen ihn ein Verbrechen. Aber wir wissen, er ist das Ende der Verbrechen. Er ist keine Tollheit, sondern das Ende der Tollheit. Er ist nicht das Chaos, sondern die Ordnung. Er ist das Einfache, das Schwer zu machen ist. Radio Onda Rossa 87.900 della modulazione di frequenza per Roma e per Lazio, sul web ondarossa.info, e eccoci qua dunque a trasmettere, insomma, scusate, mi tradisce un po' l'emozione di trasmettere la mia prima trasmissione in diretta del 2019, il 20 marzo. Comunque vabbè, ci sono stati dei problemi che ci hanno impedito ovviamente di partecipare e rendere appunto disponibili, fruibili le mie, insomma, la musica che solitamente metto in diretta in questo lasso di tempo in diretta. Eccoci qua quindi a dare voce appunto la viva voce a questi microfoni in questa data, e quindi quando sono le 20:13 inizio la mia trasmissione, il mio spazio qua dalle frequenze di Radio Onda Rossa, sempre preceduta dalla sigla che ci accompagna ormai da tempo, lo del comunismo di Bertolt Brecht nella versione musicale che gli ha dato Hans Eisler e che abbiamo qua all'inizio cantata dalla voce di Carmen Maia Antoni, e con la quale saluto tutti quanti e tutte quante coloro che sono all'ascolto. Sempre un grande abbraccio va da questi microfoni a coloro che sono privati della propria libertà personale, tutti i compagni e le compagne, proletariato imprigionato, costretto agli arresti domiciliari o alla latitanza. Eccoci qua dunque, in questo periodo in cui non sono stato, sono successe tante cose, e tra l'altro quello che penso ormai tutti quanti sono a conoscenza, il fatto che la radio si sta dotando di questo metodo di sottoscrizione che viene fatto attraverso il tesseramento, questo 30 per 1000 appunto, che permette alla radio di trasmettere trovando la sottoscrizione e l'appoggio di 1000 persone per un anno, che appunto sottoscrivino 30 euro annuali, e questo si può fare andando sul sito della radio ondarossa.info e cliccando su quell'area che è ben evidenziata in giallo del 30 per 1000 e seguire, insomma, tutte le varie soluzioni che ci sono per sostenere la radio attraverso questo mezzo che ci siamo dati per coprire solamente proprio la parte essenziale che dà modo alla radio di poter sopravvivere per un anno. Poi insomma gli spot sono stati diversi, si sono susseguiti anche diverse caratterizzazioni che hanno insomma voluto fare proprio le pulci a questo mezzo di sottoscrizione, che insomma non è nulla di particolare. E comunque sappiate sempre che ovviamente il mezzo tradizionale di sottoscrizione, quello del conto corrente postale, il 6180-4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Voci numero 56-00185 Roma, quello è sempre valido. Quindi diciamo sono aperte più opzioni diciamo sulle quali contare per far sopravvivere questa radio nell'etere, e sempre e comunque senza pubblicità, senza appunto che vi siano sottoscrittori occulti o partiti o non so chi, che cosa le menti più si possano inventare per questa radio, ma solamente attraverso il sostegno puro dei propri ascoltatori, ascoltatrici, compagne che la frequentano, la vivono e la fanno diciamo la mandano in onda, e anche attraverso le varie iniziative nel territorio. Quindi quando insomma abbiamo dato voce a questo mezzo che di cui ci siamo dotati per far sopravvivere questa radio, quando abbiamo dato voce a questo appunto lasciamo il passo, ci diamo il passo alla musica, e per diciamo, nel particolare prendiamo il primo pezzo che vi andiamo a trasmettere, che si tratta di Wolfgang Amadeus Mozart nella versione della Filarmonia Orchestra diretta da Vladimir Ashkenazy, che interpreta anche al pianoforte. Vi facciamo ascoltare il primo movimento del concerto numero 21 in La maggiore, il K467. Quindi buon ascolto da queste frequenze, gli 87.9 di Radio Onda Rossa, il telefono 06-49-17-50. la bionda rossa 87.900 della modulazione di frequenza per Roma e per Lazio su web ondarossa.info, e abbiamo ascoltato quindi la prima selezione per questa sera, Wolfgang Amadeus Mozart nella versione della Filarmonia Orchestra diretta da Vladimir Askenazy e appunto interpretata anche al pianoforte dallo stesso direttore d'orchestra e pianista, e tratto dal concerto per pianoforte orchestra numero 21 in Do maggiore, il K467. Ci siamo ascoltati il primo movimento, l'Allegro maestoso. Non è raro che qua da Allegro con fuoco, diciamo, molto spesso si antepongono dei generi musicali, insomma, appartenenti ad epoche passate, tipo questo qua di Mozart, che insomma sappiamo che vive tra il 1756 e il 1791, a musiche appunto dei appartengono a autori dei giorni nostri, musica contemporanea in questo caso, e di un contemporaneo vogliamo appunto andare a prendere un pezzo appunto da farvi ascoltare. Si tratta di Terry Riley, e di lui ci ascoltiamo un brano che ha un titolo Chanting The Light of Foresight, se ho pronunciato bene. Thank you. Una rossa Terry O'Reilly, abbiamo ascoltato in questo Chanting the Sight, the Light of Foresight, e interpretato da questo quartetto di sassofoni, il Rowa Saxophone Quartet, e in questa insomma originale interpretazione e appunto commistione di questi quattro strumenti che insomma non sono proprio e abituali in nella musica classica. E andando avanti passiamo all'ascolto di Franz Liszt, 1811-1886 di Franz Liszt. Ci andiamo ad ascoltare da un'opera appunto che si intitola Deuxième année Italie, pezzo che si intitola Après une lecture de Dante, appunto dopo una lettura di Dante. Quindi abbiamo qua una comparazione di questi due grandissimi poeti, appunto Dante e Alighieri, che insomma tutti conoscono, e l'interpretazione gli ha dato anche quest'altro grandissimo poeta, appunto, che è Franz Liszt, poeta che si è espresso attraverso la musica. E quindi vediamo questa commistione di pensieri, che cosa appunto ha suscitato in lui e cosa vuole esprimere attraverso questo pezzo che ci andiamo ad ascoltare. Quindi un buon ascolto, sempre sulle frequenze di 87.9 della modulazione di frequenza per Roma e per Lazio, e sul sito web ondarossa.info.

was spricht eigentlich gegen den Kommunismus? Eh sì, già l'ora di chiusura, mi sono anche un po' allargato un po' troppo, diciamo. Comunque, beh, il pianista era Alfred Brendel, Franz Liszt, dopo una lettura di Dante. Quindi a tutte e a tutti voi un appuntamento alla prossima settimana con Allegro con Fuoco. Die Ausbeutern in den Hin ein Verbrechen. Aber wir wissen, er ist das Ende der Verbrechen. Er ist keine Tollheit, sondern das Ende der Tollheit. Er ist nicht das Chaos, sondern die Ordnung. Er ist das Einfache.